Chissà cosa ne avrebbe pensato Monsignor Maggiolini, un oncologo di uno dei più grandi centri del mondo per la cura del cancro, distribuisce ai malati vetrini che contengono sangue di cardinale. Che l'oncologo ne potesse aver conservato qualcuno di questi vetrini è più che comprensibile dal momento che il cardinale in questione è morto di leucemia nonostante le cure da lui prodigategli. Visto che le sue cure falliscono, si sarà detto proviamo con la medicina alternativa. Annota Anatole France nel Manichino di Vimini. Manichino di Vimini è la seconda puntata di quella stupenda opera narrativa che è La storia contemporanea, pubblicata tra il 1896 e il 1901 in quattro volumi. Annota France che Luigi XIV faceva fondere il vasellame dei sudditi per pagare i costi delle sue guerre. Alla zecca mandava perfino i tesori delle chiese, fra i quali va ricordato il seno, presumo aureo, il seno deposto in segno di riconoscenza per una guarigione dalla regina di Polonia nella cattedrale di Notre-Dame-de-Liesse in Piccardia. A testimonianza di come cambino le tecniche guerresche va poi registrato quanto accade nel Regno d'Inghilterra. L'esercito ha deciso di pagare le spese relative all'operazione al seno di una dozzina di soldatesse. Nulla a che fare con le Amazzoni, anzi esattamente l'opposto. Qui non si tratta più di tagliarlo via, ma di renderlo artificiosamente prosperoso. L'adeguamento ai modelli anatomici vigenti garantirebbe la virtù militare. Tre eventi di ospedale, di chiesa e di esercito, tre istituzioni notoriamente inaffidabili. L'animale che verrà e che peggio per lui cercasse di capire in base a quali valori ci muoviamo e a come siamo cambiati nel corso della nostra storia, andrà incontro alle sue belle difficoltà.